che buoni consigli mi dava mia madre, del maschio che cosa ci fai? Se ti necessita portalo a letto, però non legartici mai. Io giovane ingenuo con poca esperienza, lei parlava, io non l'ascoltavo. Salì gradini che portano in chiesa, era meglio se mi impiccavo. Cosa ho fatto? Mamma, mamma, cosa ho fatto? Mamma, mamma, cosa ho fatto? Mamma, mamma, cosa ho fatto? Mamma, mamma. Porto a scuola ogni giorno, poi via di corsa, sei ore il lavoro, due ore l'andata e ritorno. I vizi ne ha tanti e non voglio elencarli, ma il poker è il suo sacerdozio. Un tavolo verde del whisky con ghiaccio, lui sguazza di notte l'ozio. Cosa ho fatto? Mamma, mamma, cosa ho fatto? Mamma, mamma, cosa ho fatto? Mamma, mamma, cosa ho fatto? Mamma, mamma. Quando è che da tanto io resto a digiuno, mi sta bene anche un pezzo di pane. Se alle volte ci faccio l'amore, è solo per rabbia di fame. E mentre lui pensa all'amante, io sogno di avere un altro uomo nel letto. Facciamo di due, è come se fossimo in quattro. Cosa ho fatto?